in primo piano. Buongiorno a tutti. Due i temi principali che ci sono oggi sulle prime pagine dei giornali. L'esito del vertice straordinario dell'Unione Europea ieri a Bruxelles sui piani anticrisi e la risposta di Berlusconi, del Presidente del Consiglio, al segretario del Partito Democratico Dario Franceschini sul tema degli assegni ai disoccupati. Partiamo dal vertice straordinario dell'Unione Europea. Leggiamo dal Sole 24 Ore una breve sintesi dei risultati del vertice. Il summit straordinario dei 27 capi di Stato e di Governo della UE a Bruxelles ha bocciato la proposta di un maxi piano di interventi a favore dei paesi dell'Est. Decisiva è stata la posizione del cancelliere tedesco Angela Merkel, presto seguita da altri leader e perfino dai premier di Repubblica Ceca e Polonia. L'Europa interverrà caso per caso nei paesi a rischio di default, riconoscendo significative differenze tra gli stati dell'Europa centrale e dell'Est. Il comunicato finale, scrive ancora il Sole 24 Ore, invita infine i 27 a sbloccare i canali del credito, annunciata la presenza di Barack Obama al prossimo summit di Praga il 5 aprile. Per capire, come dire, il significato del vertice, dell'esito, leggiamo alcuni passaggi dell'editoriale di Adriana Cerretelli, sempre sul Sole 24 Ore. Almeno per ora la crisi non spacca l'Europa. Non lo fa perché a bocciare la logica dei due blocchi, ieri al vertice UE di Bruxelles, sono stati i paesi dell'Est prima ancora di quelli dell'Ovest. Troppe sono le differenze e le divergenze tra i paesi della nuova Europa per fare di tutta l'erba un fascio, hanno detto la tedesca Angela Merkel come il ceco Mirek Topolánek. Dunque, niente piano unico per il salvataggio dell'area. No al megapiano da 190 miliardi chiesto dall'Ungheria nella tempesta e no all'ingresso accelerato nell'euro per le monete orientali. Invece, solidarietà caso per caso, garantita dalla Germania e di concerto con le istituzioni internazionali. Scrive ancora, chiudendo il suo editoriale, la Cerretelli, nessuna involuzione dunque, ma nemmeno nessuna sostanziale evoluzione ieri del modello europeo, che resta arroccato sulla logica del coordinamento delle azioni nazionali nella speranza che basti a preservare la tenuta del mercato unico e dell'area euro. Un esercizio forzato di Concordia 27, di solidarietà concreta ma limitata. Nonostante la bufera che l'assedia, l'Europa continua ad avanzare a tentoni, in attesa che la crisi la costringa al prossimo piccolo passo. Però non è detto che i suoi bioritmi convincano i mercati. Sempre sul l'esito del vertice, il commento di Franco Venturini in apertura del Corriere della Sera. L'est europeo rimane una bomba a orologeria, scrive Venturini, e il pericolo non è quello segnalato dal premier ungherese che ieri con una mano chiedeva 180 miliardi di aiuti e con l'altra paventava il ritorno della cortina di ferro. Certo, l'Est come blocco ha cessato di esistere, ma proprio per questo le sue insolvenze sono legate a doppio filo con la salute delle banche occidentali, che su quei mercati si sono gettate a capofitto dopo il precoce allargamento europeo del 2004. Se Ungheria e Lettonia, i paesi messi peggio, diventeranno stati falliti, crescerà il rischio che l'Austria scivoli sulla stessa china. L'intento di dare regole nuove all'attività finanziaria diventerà ingestibile, e si dovranno moltiplicare nazionalizzazioni e aiuti d'emergenza. Il pericolo del muro, di un muro assai più contorto e discontinuo di quello di Berlino, resta in agguato. Abbiamo parlato della risposta di Berlusconi. Ah no, un ultimo aspetto ancora del vertice ieri di Bruxelles, straordinario, riguarda le banche italiane. Berlusconi ieri è intervenuto ancora una volta da Bruxelles per rassicurare sullo stato di salute delle banche italiane. A suo parere, come ha ribadito ancora ieri, quelle in una situazione meno problematica rispetto all'esposizione sugli asset tossici, sui derivati, insomma, rispetto a molte altre banche in Europa e non solo in Europa. Leggiamo brevemente ancora da Repubblica questa volta, Claudio Tito da Bruxelles. Le nostre banche sono state le meno toccate dalla crisi, ma il problema adesso è che qualcuno può falsare le regole della concorrenza. Silvio Berlusconi difende gli istituti italiani, che a suo giudizio restano ancora in buona salute, ma che rischiano di gareggiare in una corsa falsata dal sostegno pubblico massiccio di alcuni paesi europei. Nel corso del summit straordinario di Bruxelles, il Cavaliere ha insistito non poco su questo punto. Ha alzato le barricate e ha reclamato anche di modificare una parte del documento finale. Il bailout, il salvataggio di alcune banche europee e l'ingresso nella loro guida dell'azionista pubblico può trasformarsi, a suo giudizio, in una penalizzazione per la finanza italiana. Dicevamo, l'altro tema molto presente sulle prime pagine dei giornali, su cui decidono di aprire tra gli altri Repubblica, Stampa, Il Giornale, Il Secolo XIX, è la vicenda, la questione dell'assegno ai disoccupati chiesto dal segretario del Partito Democratico Dario Franceschini. Ecco, proposta che il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, proprio da Bruxelles, ha respinto ieri in modo molto netto. Silvio Berlusconi, leggiamo ancora dal Corriere, lo attacca. I vincoli del trattato di Maastricht rendono non sostenibile la proposta del Partito Democratico sull'assegno ai disoccupati. Ci costerebbe un punto e mezzo di PIL. E Dario Franceschini, dallo studio televisivo di Fabio Fazio, risponde: i soldi si possono trovare con la lotta all'evasione fiscale. In altre parole, la crisi diventa il fronte di scontro tra maggioranza e opposizione, mettendo almeno per un giorno in secondo piano i temi eticamente sensibili. Una battaglia che in questo caso vede Pier Ferdinando Casini a fianco del Cavaliere. Ha ragione Berlusconi, perché l'assegno ai disoccupati rischia di restare soltanto uno spot pubblicitario. C'è un altro tema, ritengo molto interessante, oggi presente sulle prime pagine e in generale nei giornali, riguarda la scuola. Il Ministero della Pubblica Istruzione ha diffuso ieri i dati del primo quadrimestre, e da cui emerge un quadro molto interessante sulla situazione, sulla nuova situazione, direi, per certi versi, della scuola italiana. Il titolo di Repubblica, in prima pagina, record di 5 in condotta, bocciato il maestro unico. All'interno leggiamo l'articolo di Mario Reggio: fioccano i 5 in condotta nelle scuole superiori, aumentano i debiti formativi, 7 studenti su 10 hanno riportato almeno un'insufficienza nel primo quadrimestre, un'ecatombe che registra punte record negli istituti professionali. Mentre il 90% delle famiglie ha chiesto le 30 ore settimanali o il tempo pieno per il prossimo anno nelle prime classi delle elementari. Ancora più avanti leggiamo che oltre 34.000 studenti delle superiori si sono trovati con il 5 in condotta in pagella. Ecco, su questo punto specifico c'è un interessante articolo di Paola Mastrocola sulla Stampa, di cui vi leggiamo un passaggio. È anche possibile che siano troppi tutti questi 5. Forse, a forza di stare senza bastone, gli insegnanti hanno bastonato a man bassa, chissà. Ma non credo che si siano fatti prendere la mano senza criterio. Credo che si siano sentiti, per la prima volta dopo decenni, un po' tutelati. Forse un po' troppo euforicamente? Non so, certo è che l'ineducazione scolastica raggiunge numeri ormai davvero preoccupanti. Io non so se essere felice di poter usare il 5 in condotta. So però che la parola condotta è una buona parola. È importante come una persona si conduce nella vita, come si comporta con gli altri, se è gentile e rispettosa oppure no. C'è però in questa vicenda della scuola anche un altro aspetto, che riguarda il ruolo della famiglia, il ruolo dei genitori, e su questo tema, prendo spunto proprio dai dati diffusi ieri dal Ministero, interviene sul Giornale Michele Brambilla nell'editoriale di apertura. Pare che finalmente la scuola italiana, conosciuta come la più permissiva del globo terracqueo, si sia decisa a dare un giro di vite. Gli ultimi scrutini hanno fatto registrare un aumento delle insufficienze e una pioggia di 5 in condotta. Sembra incredibile, ma tirare un righello in testa a un professore non è più consentito. La scuola dunque ha deciso di fare la sua parte. Bene, ma ora tocca a noi. Per noi intendo noi genitori della sciagurata generazione cresciuta con lo slogan sessantottino vietato vietare e con l'incubo del giudizio del dottor Spock. Il piccolo andava nutrito non quando aveva fame, ma rispettando gli orari di una tabella prestabilita. Una sculacciata ci faceva precipitare in angosciosi sensi di colpa. Alla prima insubordinazione dovevamo abbozzare senza reagire, perché il pargolo stava semplicemente separando il proprio sé dal nostro noi. Siamo una generazione traumatizzata dalla paura di traumatizzare i figli. Qualunque cambiamento era percepito come un attentato all'integrità psicologica dell'erede. La nascita del fratellino, l'inizio dell'asilo, la scoperta dell'inesistenza di Babbo Natale. Abbiamo parlato del vertice europeo, abbiamo parlato delle rassicurazioni di Berlusconi sulle banche italiane, della polemica, della risposta del Presidente del Consiglio Franceschini sugli assegni disoccupati, abbiamo parlato della scuola. Ora, direi che i grossi temi affrontati dai giornali di oggi sono più o meno conclusi. Ne approfittiamo per andare a curiosare nelle pagine interne. A pagina 29 del Corriere, in particolare, c'è una, direi come al solito, interessante, ma in questo caso molto utile anche, risposta di Sergio Romano ai lettori. Il tema è quello del nucleare. Come sapete, l'Italia si sta incamminando nuovamente sulla strada dell'energia nucleare. C'è l'ipotesi di realizzare 4 impianti sul territorio italiano. È chiaro che questo ha riaperto polemiche, discussioni, dibattiti, e molti si chiedono: ma non c'è stato un referendum che ha impedito che in Italia si facesse il nucleare? Che ne è successo? Perché oggi ritorniamo su questo tema? Ora, Sergio Romano chiarisce in modo molto netto questa vicenda. Cari lettori, non c'è peggior dibattito di quello che muove da premesse sbagliate, scrive Romano, e costruisce su di essi il castello delle sue argomentazioni. Con il referendum del 1987 gli italiani non poterono dire no al nucleare. Non era quella, infatti, la domanda che trovarono sulla loro scheda. I quesiti erano 3. Volevano abrogare la legge che attribuiva al CIPE il potere di determinare le aree dove insediare le centrali elettronucleari, nel caso non lo facessero le regioni? Volevano abrogare la legge che autorizzava l'Enel a versare contributi a regioni e comuni in proporzione all'energia prodotta sul loro territorio con centrali nucleari o a carbone? Volevano abrogare la legge che consentiva all'Enel di promuovere la costruzione di impianti elettronucleari con società o enti stranieri o anche assumere partecipazioni che abbiano come oggetto la realizzazione e l'esercizio di impianti elettronucleari all'estero? Gli elettori dissero sì, a grande maggioranza, e la loro risposta ebbe l'effetto di cancellare quelle norme. Ma il governo avrebbe potuto costruire centrali con altre regole, diverse da quelle abrogate, e avrebbe dovuto, a giudizio di molti osservatori, completare la costruzione degli impianti in corso d'opera. Avevamo investito molto denaro e creato le condizioni per la nascita di imprese che avrebbero dato un notevole contributo al nostro progresso tecnologico. Ma la classe politica preferì cavalcare pigramente e pavidamente le paure di Chernobyl, smantellare il lavoro già fatto e buttare via spensieratamente, insieme a parecchio denaro, una somma difficilmente quantificabile di esperienze scientifiche. Naturalmente il prezzo di quella sconsiderata decisione venne pagata dai contribuenti e soprattutto con le bollette dell'Enel. L'8 novembre 1987 fu il giorno in cui un'alleanza tra la demagogia e la paura mise in ginocchio contemporaneamente l'economia, la scienza e la politica del paese. Quanto dura la validità legale di un referendum? Per quanto tempo siamo tenuti a rispettarne le conclusioni? Mi sembra di comprendere che giuristi e costituzionalisti hanno su questa materia pareri diversi. Mi limito a osservare che ogni consultazione referendaria riflette le tendenze e le condizioni prevalenti in una precisa circostanza storica. Nel 1987 votammo dopo la caduta del prezzo del petrolio e all'ombra del disastro di Chernobyl. La situazione oggi è alquanto diversa. Conosciamo meglio le potenzialità e i limiti delle energie alternative, sappiamo quanto sia pericoloso dipendere da fornitori stranieri. Siamo circondati da centrali nucleari, spesso costruite con nuove tecnologie. Importiamo energia nucleare a buon prezzo dai paesi vicini per una quantità pari al 20% del consumo nazionale. Viviamo in un mondo in cui il nucleare è all'ordine del giorno, anche per coloro che, come la Gran Bretagna, se ne erano allontanati. E infine, come è stato ricordato da un altro lettore in una lettera molto documentata, l'Enel non è più un'industria pubblica, è una società per azioni cui non possiamo legare le ali impedendole di muoversi sui mercati internazionali con la stessa libertà con cui si muovono i suoi concorrenti. Sino a quando dovremo continuare a rispettare le ambigue decisioni del 1987? Se gli oppositori del nucleare lo vorranno, potranno sempre, in futuro, proporre altri referendum, ma non possono trincerarsi dietro quello di 22 anni fa. Un altro tema di attualità in questi giorni è quello, come sapete, delle ronde che molti hanno definito anti-immigrati, insomma delle ronde antiviolenza. Ieri su questo tema c'è stata una presa di posizione molto netta del sindacato dei carabinieri, di cui riferisce in particolare in prima pagina il Messaggero. Vi leggo brevemente il titolo: i carabinieri dicono no alle ronde. Il COCER nell'occhiello, servono più risorse per le forze dell'ordine. Con la presa di posizione dei carabinieri sulle ronde, il cerchio è belle chiuso. I militari sono scesi in campo per dire il loro no deciso all'attività di privati cittadini in funzione di sicurezza urbana. L'intervento dei carabinieri era nell'aria. Prima, nei giorni scorsi, si erano espressi a più riprese i poliziotti nelle loro varie componenti. Il no era netto. Poi è stata la volta della Guardia di Finanza a rompere gli indugi, segnale potentissimo, già che i finanzieri sono dei militari e quindi tenuti a osservare la disciplina insieme alla linea ufficiale. Ma gli scricchioli sono diventati una frana con l'intervento dei carabinieri. I rappresentanti del popolo dell'arma definiscono impraticabile la misura delle ronde sull'impianto di sicurezza che opera nel nostro paese. Secondo il COCER, il tema sicurezza è strettamente legato alle risorse economiche assegnate ormai da anni in misura sempre minore dalle varie finanziarie alle forze dell'ordine. Ieri si è votato in Carinzia, in Austria, regione austriaca alla frontiera confinante con l'Italia, regione famosa perché il suo leader è stato a lungo, prima di morire in un incidente stradale, Haider, Jörg Haider. Ieri si è votato e il partito dell'ultradestra di Jörg Haider ha stravinto le elezioni. Molti leggono in questo voto uno dei tanti segni della paura della crisi economica, della paura del posto di lavoro, della paura quindi di chi te lo può portare via, dell'immigrato, e un segnale che alcuni sottolineano, è stato, su alcuni giornali viene sottolineato, è stato evidenziato ieri anche in Olanda, dove un sondaggio ha registrato un fortissimo aumento dell'intenzione di voto per il partito, anche qui dell'ultradestra, ultranazionalista, di Wilders. Leggo brevemente da Repubblica sul voto di ieri in Carinzia. Trionfo postumo per Jörg Haider, il giovane carismatico e controverso politico austriaco che fino alla sua tragica morte in un incidente d'auto in ottobre fu il più brillante e noto leader della destra radicale europea. Il partito di Haider, la Lega per il futuro dell'Austria, ha stravinto le elezioni in Carinzia, lo stato in cui Haider era governatore. Nelle proiezioni di ieri sera relative a oltre il 43% dei voti, il partito vola al 46%, mentre il suo più serio concorrente locale, la socialdemocrazia guidata a livello nazionale dal giovane dinamico cancelliere Faymann, perde 10 punti e crolla al 28,8%. Credo di dovervi lasciare a questo punto. Chiudo soltanto dicendovi che l'Unità ha deciso per il giornale di oggi fare una prima pagina, soli e solidali, sulla diffusione dei contratti di solidarietà, e la Gazzetta dello Sport sulla giornata di ieri, in particolare sulla serata di ieri, titola Roma da sogno, Inter di Ferro. Grazie